verità. Quindi se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 Mattino" di Alessandro Milan. Quando ti chiami Milan non puoi adattarti a normalità, non puoi volare basso. Papini diceva che Satana dorme sul guanciale dei potenti, quindi cosa suggerisce al loro orecchio secondo voi? Inganni, inganni, inganni. È stato interessante ascoltare l'intervento introduttivo di Monica Cirinna. Lei questa qui mi sembra un po' la donna del capitolo 17 dell'Apocalisse, no? La Babilonia, insomma, che adesso brinda prosecco alla vittoria. Mamma mia, il diavolo! Signora, arriverà anche il funerale, stia tranquilla. Glielo auguro il più lontano possibile, ma arriverà anche quello. Capito, senatrice Cirinna? Così parlò padre Livio Fanzaga, direttore di Radio Maria. Arriverà anche il funerale. Lei che brinda prosecco, mi ricorda la donna dell'Apocalisse capitolo 17, per traduzione, mi sono dovuto documentare, era la prostituta di Babilonia. E come ha risposto la senatrice Cirinna? Ha risposto a questo: arriverà presto il funerale, mo me lo segno. Ricordati che devi morire. Come? Ricordati che devi morire. Va bene. Ricordati che devi morire. Sì, no, mo me lo segno proprio. C'è una cosa, non mi preoccupare. È straordinario, c'è anche questo nel dibattito molto pacato, molto tranquillo, molto sereno sulle unioni civili, eh? Ricordati che devi morire, arriverà il funerale, signora Cirinna. Ah, vabbè, che dobbiamo fare? Ah, attenzione, ci sono anche il presidente della società più importante dei pediatri che dice che Non è assicurato che crescere per un bambino con o due papà o due mamme sia fonte di benessere, potrebbe essere causa di qualche disturbo. E adesso c'è il dibattitone sui giornali. Io vedere sviscerata una cosa così delicata, così intima, così importante, così controversa come il dibattito, ma crescere con due papà o due mamme fa crescere psicologicamente equilibrati? Ecco, vedere tutto sviscerato in 50 righe di un giornale mi dà proprio il senso di una sciatteria, di un cialtroneria pura, dai, direbbe anche De Luca, cialtroneria pura, cioè direbbe Crozza, il Crozza De Luca. Ma c'è anche questo, cari ascoltatori, d'altronde come dice padre Livio, è il diavolo, il diavolo. Mamma mia, è il diavolo. È il diavolo che domina tutto. E allora, eccoci qui, cari amici, 24 mattino. Questa è la trasmissione con Lorenzo Nespoli in redazione, Peter Bescapè in regia. Il Milan che vince, ormai trionfa sempre. E andiamo. Questa è l'unico vero diavolo che conta. 1-0. Il diavolo. Voglio salutare prima un graditissimo ritorno, Maurizio Tortorella, vice direttore di Panorama. Buongiorno, come stai, Maurizio? Bene, grazie Alessandro. Tutto a posto. Qui. Buongiorno. Eccoci qua. E poi colui che ha visto il suo Palermo piegato dal nerbo rossonero, Vincino. Dai, più entusiasmo, 2-0. Ma che più entusiasmo, dai, non esagerare. Ma non esagerare. Cioè, come dire, non è che... Abbiamo vinto a Palermo. Vabbè, avete vinto a Palermo. Abbiamo trionfato. Avete a anche perso a volte a Palermo, dai. Che una volta si vince, una si perde. Vabbè. Così. Vabbè, mamma mia, come l'hai presa bene. Ma tu hai esagerato, non fare questo. Come hai esagerato? Ti ho fatto sentire solo un gol, come se fosse finita 1-0, invece è finita 2-0. 2-0, allora. Va bene. Allora dai, su, va bene. Allora, con Vincino e Maurizio Tortorella, vice direttore di Panorama, siamo qui a parlare. Vedete che maniera anzi, apriamo il Parlamento. Avete visto che pacatezza di Toni? Vado a prendere un caffè, quindi se mai ci vediamo. Padre Livio Fanzaga. Caro Vincino, padre Livio Fanzaga, hai sentito? La pagina 17 dell'Apocalisse. Il capitolo, sì, pagina 17. La prostituta di Babilonia. Esattamente. Allora. Radio Maria, come dire. La tua radio preferita. Cos'è che dici, Maurizio? È l'amore per il prossimo. Sì, è l'amore cristiano per il prossimo. Mi esprimo un po' malamente. Sì. Peggio che ci sia è questo dibattito qua. Sentire al Senato è una cosa, guarda, insopportabile. Abbastanza. Sì. Proprio la arretratezza di tutti, che poi ognuno parla per lasciare agli atti questo suo discorsetto, questa cosa, però la cosa più divertente della giornata era il francese di Renzi. Il francese di Renzi, tu lo vuoi subito? Allora, dichiariamo subito, tu come sei messo a francese, Vincino? Io sono a zero di francese. No, insomma, come dire, lo capisci, lo parlucchi. Tu, Maurizio invece frequenta le zone. Non l'ho mai studiato a scuola, ma l'ho praticato per motivi di geografico. Sono stato molto in Francia, quindi io lo parlo, lo capisco comunque. Lo capisci. Allora, sentite qua, noi ti capiamo invece un po' poco, perché c'è il cellulare, c'è sempre sto cellulare, dove è che sei? Sei a casa ovviamente a quest'ora, mi sembra giusto. A casa tua? Dobbiamo tranquillizzare, sì. Casa mia. No, non lo so, noi a quest'ora chiamiamo gli ospiti, non sappiamo mai in che case bene si trovano. È casa mia. È casa tua, perfetto, tutto regolare, tutto tranquillo. Vabbè, comunque, preparate le palette da 0 a 10 perché, dai, diamo il voto, chiedo anche agli ascoltatori al 349-238-6666, aiutatemi, io di francese non... Sì, posso capire se la pronuncia un pochino, ma insomma, Renzi, il francese di Renzi. La Renaissance, j'étais le maire de Florence, je connais très bien l'incroyable histoire de la Renaissance. Questo ce l'ha sempre, inglese o francese. Ont été pensées, idées, dans une petite ville. Petite ville, una piccola città, giusto Maurizio? Petite ville. A connessione internet, nous avons la possibilité de connaître chose che il y a 20 ans le président des États-Unis ne pouvait pas avoir. Presidente degli Stati Uniti, ma stava in Africa, ma io non ho capito niente. Cioè, Maurizio, aiutaci tu, che tu hai capito tutto. Cosa c'entra il presidente degli Stati Uniti? Stava parlando in Africa, a Dakar. Sì, e intanto non sono gli Stati Uniti, ma casomai le età. L'esetà, ecco, e subito là, professor Tortorella. Questo è abbastanza disastroso. Disastroso. Fa la la coppia con quello che diceva Come Visit Italy. Mi ricordate Rutelli quando fece straordinario. Sì. Come Visit Italy. Come Visit Italy. Sì, effettivamente, quindi che voto gli dai tu, professor Tortorella? No, sono tra il 3 e il 4. Tra il 3 e il 4? Tra il 3 e il 4? Vincino, tu... No, l'aggravante era che stava all'università. Sì. All'università. E lì il francese lo capiscono tutti perfettamente. Tutto lo parlano tutti benissimo. Poi all'università sono anche colti, insomma, diciamo. No. Ha fatto una figura terribile. Terribile. Io vorrei convocare... La Petite Ville è Ventotene, la piccola città. È vero. Cioè, è una cosa... la nostra ascoltatrice che ci segue sempre da Monte Carlo, la nostra grande Françoise, credo, Marie Françoise, adesso non ricordo il nome, mi perdoni, che ci ascolta sempre in diretta, ci dia un voto a questo Renzi, dai, al francese, perché insomma, tra l'altro Rutelli invece era questo, come visit. Visit the website, but please visit Italy. The best country in the world in terms of culture, landscape. Beh, ragazzi, la pronuncia non è neanche male. No, ma il problema di Renzi, appunto, è che a me può farla su in francese, ma stava a Dakar, cioè all'università. Quelli non la fai su, perché lì parlano francese. Lì parlano e capiscono perfettamente. Meno male invece che con l'inglese va benissimo per i nostri parlamentari. Perché oggi, ragazzi, dobbiamo fare questo piccolo viaggio nel mondo. Perché ieri, Domenico Scilipoti, l'avete sentita questa? L'avete sentita? No. Scilipoti, sentite qui a parlare di stepchild adoption. Adoption. Cavolo, Scilipoti! Porca miseria! Hai stepchild association! Era lì che gli diciamo come minchia si dice sta parola! È arrivato proprio lì, no? Lì. E succede anche questa, la stepchild adoption! Allora, Scilipoti, è la... l'adozione del figliastro, e mettila giù così. Ragazzi, che dobbiamo fare? È colpa nostra, però, voglio dire. Perché? Anche chiamare una legge Jobs Act. È vero, la stepchild adoption. Siamo degli idioti. No, va bene. Vincino, dovrai tradurre tutto questo in vignetta. Lo Scilipoti in vignetta. Il siciliano in vignetta. Noi non siamo fatti per le lingue estere, ne abbiamo tante in Italia. No. Facciamo una legge, dice questa mini, che non lo so, una legge che, come dire, con una parola siciliana, napoletana, milanese. Sì. Detto questo, stiamo un po' scherzando, ma il pronostico che chiedo a tutti, forse Vincino l'ho già chiesto una volta, ma lo richiedo, è sempre questo: dobbiamo fare il bilancino, passeranno o no queste unioni civili? Maurizio, tu che segui sempre queste cose, passeranno al ribasso con un compromesso, che succederà alla fine? Ma guarda, io mi auguro che passino. La grande incognita sono i grillini, perché loro anche ieri hanno detto: noi diciamo sì se la legge non cambia, ma dato che la legge tendenzialmente potrebbe cambiare, perché centrodestra, cosa succede? A quel punto se la votano da soli i democratici. E hanno i numeri soprattutto, perché sai, nel segreto dell'urna, sulla questione delle le tematiche etiche, Grasso potrebbe dare, di far pegare, insomma, no? E di far votare in maniera segreta, e quindi passerà alla grande con, eccolo, 130 voti, nessuno rischia, ma tutti la i cosi, metà delle cine, nello nascosto dell'una voterà a favore di tutto. Ma nessuno rischia, ma mica va a casa il governo se non passa alle unioni civili, mica va a casa il governo o chiude il Parlamento. Capito, ma quelli sono senatori, sono spaventati, quella è la loro ultima legislatura, sono terrorizzati, spaventati, sì, come dire, dire no, no, passa tranquillo. No, tra l'altro c'è un'altra cosa molto interessante su questo. Maurizio, sai che qualcuno mi ha detto che forse il Family Day, questo anche un po' ricatto politico, cioè se passa la legge Renzi ci ricorderemo, forse fa capire che si sta preparando una sorta di partito. Lo dicevano ieri alcuni giornali, che il Partito Cattolico, il Partito del Centro-Est, obiettivamente è stata una manifestazione, poi quanti fossero non ho la più pallida idea, ma è stata una manifestazione ben organizzata. Quindi insomma l'idea, poi sai fanno parte anche Adinolfi che in Parlamento forse ci tornerebbe e farebbe, gli farebbe piacere visto che c'è già stato, cioè persone anche che, alcune persone che forse vogliono portare avanti un certo tipo di discorsi sulle tematiche etiche, ma non lo so, comunque tu li vedi bene caro Micino, quanto li quoteresti? Al 2%, al 2,5%, partiti cattolici, cioè, quello di Casini era un partito cattolico di centro, no, 1,3%, l'NCD, come dire, sono l'NCD, ormai il partito cattolico, una cosa come dire di 40-50 anni, è come il partito comunista. Ecco. Cioè, quanto prenderebbe il Partito Comunista Italiano? Il 2%, il 1%, queste cose. Ho capito, qua, ma Alfano col 4% c'ha i ministri. Ma quale 4%? Allora, ho capito, ma perché ha avuto questa fortunata congiunzione e gliel'hanno regalati, non astrale, assolutamente, perché apposta, perché Berlusconi se n'è uscito dalla maggioranza, insomma, tutte queste cose qua, ma insomma, poi in realtà Alfano vale l'1,5 o il 2%, eccolo non di là. Più. Eppure c'ha dei ministri, c'ha... Ho capito, è perché Renzi è generoso. È generoso. Tra l'altro, no, chiudiamola questa cosa del Family Day. Verdini pure in maggioranza le avrà pure lui. Chiudiamo questa cosa del Family Day perché c'è un altro capitolo. Allora, le Iene, straordinarie come sempre, soprattutto Enrico Lucci, vanno al Family Day e intercettano Gasparri e Gasparri fa questa battuta veramente vergognosa a Lucci, sentite. A Maurizio, ci sono proprio tutti. Oh, ma sputato. Family Day non è l'handicappato day. Ma che battuta di merda. E anche Lucci glielo dice, cioè è il Family Day, non è l'handicappato day, quando ha visto. E infatti Lucci dice, ma che battuta di merda Gasparri. Questa cosa non è mica finita qui, perché ieri il deputato del Movimento 5 Stelle, Dall'Osso, che ha una forma di disabilità, lo sentirete anche probabilmente nella voce, ha preso la parola e sentite che ha detto a Gasparri. Io, in quanto handicappato, avrò le mie disabilità, ma le assicuro che sono capace di mandare il vicepresidente del Senato a fanculo. No, onorevole Dall'Osso, no, fermo, onorevole, bravo, Dall'Osso, oh, e che cavolo, Tortorella, quando ci vuole. Sì, per carità, a fetente e mezzo. Sì, vabbè, ma dai, però c'è uno ma è che ha usato handicappato nei confronti di Lucci, come era in tono spregiativo, come dire, handicappato, ma che siamo nel 1950 quando... Sono le sgradevolezze di questa politica che francamente non fa altro che allontanare. Certo. Quello che volevo dire però è che se dovesse passare un partito cattolico come ipotizzavi prima, va a schiantarsi come si schiantò nel 74 la Democrazia Cristiana, perché io ho l'impressione netta che il paese sia un po' più avanti, sì. Forse una speranza. Ma ricordate anche il partito del tuo amico, Ferrara, caro Vincino, il partito contro l'aborto. Mai capito. Lo 0,5%, ma quello è un altro discorso, non era un partito cattolico. No, era una lista proprio. Una lista a tema. Vabbè, dobbiamo andare al traffico, poi rientriamo. Siamo con Vincino e Maurizio Tortorella tra poco. Fibio Milan, manda al traffico in Italia, in Europa e nel mondo. Debusciato. Progetto Fuoco, Fiera di Verona, 24-28 febbraio. Progettofuoco.it vi presenta. Siete lì, pronto. giorni davanti al vostro Renzino. Ma non si fa così a essere giornalisti. Milan, per favore, di a quei cittadini italiani che hanno sporcato l'Italia con mozziconi di sigarette che esistono i portaceneri portatili. Ciao Milan, ho appena sentito la notizia di quel giudice che ha assolto il porcone. Allora possiamo farlo tutti, andiamo da questa giudice, la palpeggiamo senza pagamento sessuale, giusto? Buona giornata Milan. Ma che te dico, cretino, che vedi sempre il dito ma non guardi mai la luna, ma a prendersela con una povera donna che vive in 27 metri quadri a Borgo Pio e con una pensione di 400 euro al mese, e vatti a fare un giro sul nuovo aereo di Renzi, va, cretino. Eccola qui la nostra, la mia carissima amica ascoltatrice. Oh, se l'è presa perché ho detto io non è che me la prendo con questa donna, anzi ho detto che adesso tutti i giornali scatenati contro questo capro espiatorio. L'avete vista, Maurizio, l'hai letta l'intervista a questo, questa donna che dice sì, vivo a Roma in un bugigattolo a 25 metri quadri, cosa che paga 8 euro al mese d'affitto, no? Una delle cosiette privilegiate per la pubblica. Sì, sì, sì. Però perché ha detto, aggiunto, ma qui il pane costa, ma porca miseria, ma non è che me la prendo, io me la prendo semmai con chi ha permesso questa cosa. Certo. I giornali oggi sono pieni, tra l'altro, di queste cose. Il Messaggero fa una racconta delle vicende pazzesche, anche Corriere della Sera. Ma sono è una follia, devo dire, il fatto che ci siano state giunte comunali di destra e di sinistra che non se ne sono accorte, che soltanto un architetto si è andato a vedere sul sito di internet del comune e ha scoperto questa cosa così per caso. È abbastanza incredibile. Adesso ci vuole il prefetto Tronca. Tu, vicino a Roma, vivi in una di queste case? Dicelo subito. Assolutamente no. Però allora, quella è una vecchietta, ma non lo so che cosa. Cioè, ma infatti, io non me la prendo. Da 50 anni, ogni 6 mesi, ogni 2 anni, ogni 3 anni esce fuori lo scandalo a Fittò. Sì, ma io non. È insopportabile, no, questi scandali a bagnomaria proprio. No, ma Vincenzo, non me la prendo con lei. Però dico, se vengono a pizzicarti, non dire ma qui il pane costa in zona. Ma una vecchietta che deve dire di 80 anni, non so come dire, è pieno di vecchietti che pagano niente qua a Roma, e che di poi piccole vecchi partiti, associazioni e cose. È insopportabile questa cosa. Va qua bene. Guarda, sì, ma insopportabile nei confronti, cioè con chi ce l'hai, no, tu? Allora, con chi ce l'hai, cioè, tu? Allora sicuramente nei confronti dei politici, dei cosi, no, che ogni 3 anni, ogni 4 anni dicono la prima cosa faremo è risolvere, non hanno fatto niente, non sono manco riusciti ad avere il catalogo buono di tutte queste cose qua. Niente. E dei giornalisti che senza fantasia lo riescono fuori ogni 3 o 5 anni. Non è che vabbè, allora mi annoierei con le stesse cose. Poi però quelle vecchiette io le lascerei là, anzi ridiamogli le vecchiette a gratis. No, guarda, se ti annoi ti ritiro sul morale, dai, il francese di Renzi. Tra l'altro qualcuno mi ha scritto, ma è contagioso il de, perché anch'io oggi ho iniziato de, il francese di Renzi, dai, che è contagioso, su de. Le mer de Florence, je connais très bien l'incroyable di un periodo alla quale tutte le cose le più interessanti del mondo ont été pensées, idee, Petite ville. Mi sa che, secondo la logica, è Firenze, perché poi ha parlato di Ventotene. Sono stato il sindaco di Firenze, in una città nella quale si è svolto il Rinascimento. Il traduttore simultaneo, vai al seguito di Renzi sul Renzi Palazzo Chigi One, caro Maurizio, come traduttore. No, devo dire questa cosa, però ho davanti la copertina di Panorama. Oggi Panorama lancia una grande, ma possiamo dire anche provocazione, ho una proposta un po' provocatoria, Maurizio. Visti i conti dello Stato, temo sia una provocazione, però è una provocazione più che fondata. Però lanciate questa idea, la vera grande riforma della giustizia per voi dovrebbe essere questa: sei innocente, cioè vieni giudicato e poi vieni assolto, lo Stato ti paghi l'avvocato. Non che se lo deve pagare quello che è stato imputato e poi prosciolto. Lo paghi lo Stato. Questa è la proposta che lanciate. Nel numero di panorama ci sono sette storie esemplari di gente famosa e gente sconosciuta che si è rovinata di fatto pagando un avvocato per essere stato processato e poi assolto per anni e poi assolto con tante scuse e perché riconosciuto pienamente innocente. Quindi voi dite almeno quelle spese le paghi lo Stato. Visto che... sai cos'è? È che accade, questo è così, esattamente così in 32 paesi europei, dalla Gran Bretagna alla Russia, ed è assurdo che in Italia non sia così. Qui stiamo parlando di riforme ovviamente costose, però certo. Si potrebbe pensare ovviamente di compensare almeno in parte le spese. È un sistema, la gente, tu vai in giro e chiedi alla gente per strada, ma scusi, come funziona? Lei lo sa, lei viene processato e poi assolto. La gente pensa di pensare. È convinta. Non so, secondo me è interessatissima. Questo anche Vincino, che lui col suo passato un po' burrascoso, dai, diciamolo, in carcere. Tu ti sei pagato gli avvocati quando. Sì, come dire. Non l'ho pagato l'avvocato, certo che non l'ho pagato l'avvocato. Che ne so? Gli avvocati sono quelli che si pagano sempre più di tutti. Sembrava che non ti ricordassi. Vai dall'avvocato prima di entrare devi pagare, poi scrivi la prima lettera devi pagare, la seconda lettera devi pagare, non fa niente devi pagare lo stesso. No, l'avvocato è una tragedia, guarda. I giudici sì, la magistratura è peggio, comunque sia, sono tutte e due un disastro in mano. No, però insomma, questa è la proposta che trovate sulla copertina di Panorama. Sei innocente, lo Stato ti paga. D'accordo, 100 per 1000, 2000 per 1000, guarda. D'accordo, 2000 per 1000. Ci abbiamo già un appoggio esterno. Un appoggio esterno da parte di Vincenzo. No, ma sul fatto della riforma della giustizia vera, quell'altra, guarda, dal 75. Che dobbiamo farci 50 puntate su questa. Vi devo fermare qui e vi ringrazio, caro Vincino, caro Maurizio Tortorella. Vi lascio con Shilly Poti, la Stepchild Adoption. Shilly Poti, senti qui. Stepchild Adoption. Radio 24 ti porta nel vivo del Festival di Sanremo. Ogni giorno Enrico Ruggeri ci racconterà le emozioni e i personaggi da un punto di vista speciale, quello di chi partecipa alla gara. Appuntamento con il Sanremo di Ruggeri, dall'8 febbraio nel GR delle 7 e in effetto giorno. Nella stessa settimana, con Il Falco e il Gabbiano speciale Sanremo, alle 15.30 rivivremo insieme gli anni più significativi di questo grande evento. Inoltre, come sempre, con l'inviata Marta Cagnola, la cronaca del festival. Novità e curiosità nei giornali radio e nei programmi. Radio 24. La passione si sente anche al festival. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Eccoci cari ascoltatori, le 7:18 minuti in punto in questo istante medesimo a Radio 24, che fa testa ovviamente in tutto il mondo, altro che il meridiano di Greenwich. E allora, cari ascoltatori, siamo qui a leggere i giornali con Peter Bescapè in regia, con Lorenzo Nespoli in redazione e con tante belle storie che vi voglio raccontare. Dai, non perdiamo tempo, andiamo a sfogliarli. È giovedì 4 febbraio, i titoli intanto, il Sole 24 Ore apre così: borse Europa in caduta, il dollaro crolla sull'euro, mentre le unioni civili, ancora per il Corriere della Sera, unioni civili, le condizioni del Movimento 5 Stelle, adozioni gay, i pediatri, possibili danni sui figli, e questa invece è l'intervista del giornale al presidente dei pediatri, che ieri era anche a Radio 24. Anche per il giorno è pediatri, no alle adozioni gay. Il Messaggero torna invece sulla questione affittopoli a Roma. Scandalo affitti, il sacco di Roma. Questo è il titolo di prima pagina. Per La Stampa invece, allarme dell'Europa, l'Italia sta crescendo ma meno del previsto, il titolo più importante. Andiamo invece sul Fatto Quotidiano. Papà Boschi indagato 10 volte. Sono 10 i fascicoli, 9 per la verità già archiviati per reati fiscali nei confronti del papà del ministro Boschi. Ora si attende l'ultima archiviazione. Sulla testa, questo è l'invito invece, titolo di prima pagina, l'Unità: è finito il tempo dell'euroburocrazia che ci dava ordini. Padoan dice la flessibilità è un nostro diritto. Su Repubblica anche torna la vicenda Unioni Civili, Movimento 5 Stelle, votiamo solo la Cirinnà, adozioni gay, esperti divisi, mentre Avvenire, prima i bambini, il pediatra, possibili danni in coppie omosessuali. Per concludere questa carrellata veloce, Libero, un titolo di questo tipo: tragico errore degli 007, l'Italia ha addestrato l'ISIS. È una vicenda che risale al governo Monti, quando miliziani preparati in Siria sono stati preparati dai nostri servizi segreti per combattere lo Stato Islamico, hanno disertato in massa e poi sono finiti nelle file dell'ISIS e addestrati da noi italiani. Questa storia la racconta Libero, se c'è tempo la vedremo, ma intanto voglio partire da alcune vicende paradossali che riguardano dipendenti pubblici, che riguardano i licenziamenti. Ecco, queste due storie messe a confronto sono veramente incredibili. La prima sulla Stampa, pagina 18. Essere corrotti non basta. Il giudice reintegra il dipendente in regione. Giuseppe Salvaggiulo racconta la storia di Silvano Grisenti, tra l'altro definito importante politico molto vicino al deputato Lorenzo Dell'Ai a Trento. Condannato in via definitiva per corruzione, truffa aggravata, tentata violenza privata. Tutto ciò non basta a giustificare il licenziamento del dipendente pubblico, perché quando viene reintegrato in regione e viene licenziato per questa condanna, cioè viene fatto decadere dal suo posto in regione, il giudice lo reintegra. Lo ha reintegrato sostenendo che il cambio di mansioni salva il rapporto di fiducia. Poi viene raccontata tutta la vicenda nei dettagli. Comunque, salvo il posto dell'ex presidente dell'Auto Brennero, ha cambiato mansioni, non maneggia soldi, è difficile che possa cadere nuovamente in tentazione. Questa è la motivazione del giudice del lavoro al Tribunale di Trento, Giorgio Flam, che con queste motivazioni, nonostante la condanna, ripeto, definitiva per corruzione, truffa aggravata, tentata violenza privata, credo a un anno di carcere, sia un anno di carcere, racconta La Stampa, è stato reintegrato in regione. Ecco, uno racconta questo, giustamente la dicitura della Stampa è la giustizia che fa discutere, mette a fianco la vicenda surreale, paradossale, kafkiana, oserei dire, di Stefano Ro, 43 anni. Una storia che oggi racconta in maniera pregevole Gian Antonio Stella, pagina 23 del Corriere della Sera. Il licenziamento del professore perché fece pipì in un cespuglio. Padre di 3 figli. La scure della giustizia che troppe volte, grazie a bancarottieri, ladri, trafficanti di droga, truffatori, si è finalmente abbattuta, implacabile. E ha mozzato la testa a un professore padre di 3 figli che 11 anni fa, alle 2 di notte, in un borgo di poche anime, aveva fatto pipì in un cespuglio. Ricorda Gian Antonio Stella la sera di Ferragosto 2005 nel paesello di Averara, un pugno di case con 182 abitanti in Val Brembana. C'è una festa di paese e alla fine Stefano Ro, 2 di notte dopo aver bevuto una birra, non ce la fa più. Che fa con un amico? Si guarda intorno, dice: senti, facciamola lì, dai, c'è un cespuglio, sono le 2 di notte, 182 anime, e fa la pipì. Passa in quel momento una volante dei carabinieri. Averara, pensa che sfiga, cioè. Gli chiedono i documenti, gli fanno una ramanzina bonaria, ci rimproverano, racconta questo Stefano Ro, dice: beh, sì, ci dicono, noi abbiamo detto vabbè, ma non c'era neanche il lampione, non ci si vedeva, insomma una ramanzina, i carabinieri vanno via. Dopo 2 anni il professore si trova convocato dal giudice per aver compiuto atti contrari alla pubblica decenza orinando nei pressi di un cespuglio. Non ha neanche fatto ricorso, la cosa sembrava morta lì, e invece no. Quando finalmente diventa di ruolo dicendo di non avere alcun procedimento penale in corso e non avere niente fedina penale pulita, lo convocano dopo la segnalazione dal ministero al provveditorato agli studi. Lei ha mentito. Lei è un delinquente. Lei ha dei precedenti penali. Tenete conto che ci sono acclarati casi di pedofilia, molestie, professori che continuano a insegnare perché non è arrivata la sentenza. E invece no, la legge italiana che riesce a sbattere in galera un 35esimo dei colletti bianchi incarcerati in Germania e arriva a scarcerare sicari mafiosi perché hanno scordato una scadenza dei termini, no, decide che Stefano Rò non può cavarsela così e viene licenziato per avere mentito sulla propria fedina penale. Lo racconta Gian Antonio Stella sul Corriere della Sera. Tra l'altro, sempre per rimanere in clima licenziamenti, oggi Massimo Calandri su Repubblica fa una straordinaria pagina che mette insieme tutte le varie storie dei dipendenti del comune di Sanremo. Vi ricordate? Vabbè, il più celebre o quello ormai famigerato, il dipendente che timbrava in mutande. Ma poi ce ne sono altri, come il campione incompreso, Alessandro Vellani, 55 anni, istruttore del servizio arredo urbano, una vita con una passione, il canottaggio. Infatti tutti i giorni dalle 13 alle 15 lasciava l'ufficio e si metteva a remare che neanche i fratelli a Bagnale. Licenziato. E poi ancora la bacheca Facebook di Marco Checchi, 56 anni, operaio al servizio protezione civile, era tutto un profluvio di richiami alla politica, ci vuole più dignità, contro la casta, chiedeva pulizia, andava in consiglio comunale, dicevano, e urlava dignità, dignità ai politici. È stato beccato perché passava regolarmente i primi 45 minuti della sua giornata dopo aver timbrato al bar cappuccio e brioche, licenziato. Insomma, e così via, dal fioraio part-time all'impiegata glamour, ecco chi sono i licenziati di Sanremo. Il viaggio nel comune travolto dall'inchiesta dei furbetti sul cartellino, 19 sanzionati, nessuno ammette le colpe. Pagina 19 di Repubblica, Massimo Calandri mette insieme tutte queste storie. Oh, care donne, state attente, ve lo dico, state attente, perché succede a Latina, ma potrebbe succedere anche a voi che state ascoltando. A Latina c'è una moglie che va a processo, denunciata per maltrattamenti dal marito. Il marito si è molto e pubblicamente lamentato del fatto che la moglie non stira, non lava, non prepara da mangiare. E quindi il marito, invece che stirare, lavare, preparare da mangiare, insomma, mettersi lì di puzzo buono e fare metà del proprio dovere familiare, l'ha denunciata per maltrattamenti. E Peter Biscaper ride, lui gode di queste notizie. Casalinga di Latina rinviata a giudizio per maltrattamenti al marito. Lucia Esposito lo racconta su Libero con subito un impeto di difesa di genere. È inaccettabile dover stare ai fornelli per evitare la galera. Questo è il sottotitolo di Libero, c'è già una presa di posizione netta. Ne parleremo tra l'altro con Oscar Giannino più avanti. Avremo l'avvocato Anna Maria Bernardini De Pace, parleremo di questo, anche della sentenza di quello che del giudice che ha toccato, no, il giudice, il direttore dell'agenzia delle entrate che ha toccato il culo alle impiegate, ma è stato assolto. Comunque non stira né cucina, la moglie va a processo, state attente care signore all'ascolto, perché potrebbe capitare anche a voi, come può capitare anche questo, e se capita va di diritto a vincere il premio dell'articolo che mi fa pensare della giornata. E vince il premio Mani sul volante se siete alla guida. Siamo sempre su Libero e Benedetta Vitetta racconta questo. Il ladro entra in casa e viene morso dal cane. Ora chiede i danni al proprietario. Può sembrare una barzelletta, ma è così. Giorni fa un ladro tenta di introdursi in un'abitazione della bassa bergamasca, ma il Doberman fa il suo dovere e lo azzanna prontamente. Ora, per il morso ricevuto, questo ladro, un magrebino, ha deciso di chiedere i danni al proprietario dell'abitazione, peraltro credo autodenunciandosi per tentato furto e ingresso in una proprietà privata. Comunque, raccontato ieri dall'Eco di Bergamo, dal veterinario del cane, perché il padrone del cane ha dovuto portarlo, avendo morso una persona, ci sono vaccinazioni da fare, insomma, vaccinazioni, norme sanitarie da seguire, quindi la denuncia è partita. Questo proprietario del cane ha scoperto di essere convocato dai carabinieri perché è partita una denuncia, perché il suo cane ha azzannato un ladro. Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. State ascoltando un programma offerto da ADP, leader mondiale nella gestione del personale. Alessandro Milan, il tronca, tronca dell'informazione. Grande, grande ascoltatrice, è proprio così. Grande amica mia, tronca, tronca, tronca. E continuerò tutti i giorni se il commissario Tronca farà ciò che ha promesso di fare. Ricordate che potete mandare le vostre sigle al 349-238-6666, mi piace, così è un abbraccio virtuale che arriva tra noi, tra voi e me, con le vostre sigle, soprattutto in audio, per in questo caso sigla trionfalistica per il commissario Francesco Paolo Tronca. E oggi infatti il Corriere della Sera, ma anche il Messaggero, a nuovi sviluppi su quella che è Affittopoli. Pensate questa cifra, 100 milioni di euro l'anno, così perdiamo. Affittopoli ci costa questo, costa a Roma, a tutti noi. E oggi Tronca vuole, al ritmo di 30 verifiche al giorno, cioè 30 contratti di affitti al giorno, ha messo su una task force per controllare. 30 al giorno sono tantissimi, sono circa 45.000 gli immobili da controllare, ma almeno, dice, se continuiamo con questo ritmo, con notifiche che verranno fatte agli inquilini a mano tramite vigili urbani o funzionari comunali, racconta il Corriere della Sera pagina 2, visto che la raccomandata non basta, alcune di queste sono partite, non hanno mai avuto risposta dopo la convocazione. Con consegna a mano delle notifiche ci sarà appunto la convocazione da parte dell'amministrazione. Chi è in regola non ha nulla da temere, mentre per tutti gli altri due strade: o la regolarizzazione del contratto laddove è possibile, oppure lo sfratto esecutivo. Così si fa, al netto di tutte le polemiche sterili, aggiungo io, in un paese mediamente civile, neanche civile al 100% o democratico al 100%, in un paese appena appena normale, appena appena sopra la sufficienza della normalità. E oggi è ancora pieno di storie, ne parleremo anche noi. Noi in centro per 67 euro, è la storia di due inquiline considerate abusive dal 1982, che dicono, e infatti io non me la prendo con loro, ma è il sistema che non funziona, dicono loro, sentite, siamo lì dall'82, abbiamo chiesto decine e decine di volte al comune, abbiamo faldoni alti così in casa di corrispondenza, per dire metteteci in regola, come facciamo a metterci in regola? E loro ci rispondono che non possono né venderci casa né stipulare un contratto d'affitto regolare perché siamo formalmente occupanti. E quindi paghiamo per il momento 67 euro, è l'indennità di occupazione. A volte salgono a 107 nel caso di un appartamento più grande. Abbiamo pieno di storie così, e poi la storia dei partiti. Ci sono dentro anche i partiti. Abbiamo raccontato la sede del PD di Via dei Giubbonari la scorsa settimana con Oscar Giannino insieme alla responsabile di quella sede. E oggi infatti Ernesto Menicucci racconta proprio la sede del PD di Via dei Giubbonari a pagina 5 del Corriere. Ma c'è anche la sede storica del Movimento Sociale di Colle Oppio, oggi Fratelli d'Italia, occupata da Fratelli d'Italia, paga 154 euro e 92 centesimi, ma all'anno, non al mese, all'anno 154 euro il partito Fratelli d'Italia Colle Oppio a Roma. La sede del PD invece ha 170.000 euro di debiti. E la sede invece, quella ex MSI, ora Fratelli d'Italia, ha il canone stipulato nel 1947, mai adeguato. Andiamo avanti così, eh? Andiamo avanti così. Tronca! Tronca! Ecco, io continuerò imperterrito. Allora, a parte questa vicenda di Affittopoli, continua invece il dibattito sulle unioni civili, e questo ve l'avevo già detto, preannunciato settimana scorsa, non scamperete tutti i giorni dalla vostra razione quotidiana sui giornali di articoli, posizioni. Oggi la posizione di Sergio Lo Giudice, senatore con un compagno che ha fatto la maternità surrogata e che ieri era ai nostri microfoni, finisce su tutti i giornali. Così ho usato la maternità surrogata, l'ha anche raccontata in un'intervista col suo compagno alle Iene, e racconta di come siano andati in California e non vuole spiegare, non vuole raccontare però se ha pagato la donna oppure no, dicendo che gran parte delle spese se ne vanno per l'agenzia che segue tutta questa vicenda. Vabbè, tra l'altro, maternità surrogata, che è stata definita in modo molto veemente dal ministro della Salute Beatrice Lorenzin ultra prostituzione. Questa è la frase definita frase shock sul giornale, ma anche Avvenire mette il titolo di prima pagina, poi richiamo con ampio risalto a pagina 7: la maternità surrogata è ultra prostituzione. Così il ministro Lorenzin, contraria anche alla stepchild adoption, cioè l'adozione del figliastro, come è stata definita, invita le colleghe parlamentari a discuterne. Fra donne troveremo una soluzione, così Beatrice Lorenzin. La maternità surrogata o l'utero in affitto, se volete essere più brutali con questa espressione brutale, è ultra prostituzione. Tutti guardano a cosa farà il Movimento 5 Stelle, perché i voti contano e si pesano al Senato. Il Movimento 5 Stelle dice: noi voteremo sì alla Cirinnà solo se non cambia, e quindi se non ci sono grandi modifiche. C'è un'intervista di Annalisa Cuzzocrea su Repubblica al senatore Morra: noi cattolici dei 5 Stelle decisi a dire di sì. C'è poi la polemica con i pediatri che sono scesi in campo per bocca del suo presidente Giovanni Corsello, che ieri sera era Radio 24, oggi lo potete trovare intervistato su Repubblica, sul Giorno, sul Corriere della Sera, un po' ovunque. Che dice il presidente Corsello: certo, ogni caso va valutato singolarmente, ma avere genitori dello stesso sesso può causare diversità. E quindi c'è questo dibattito sui giornali. Io l'ho già detto prima, un dibattito così delicato, così con tante sfaccettature, così complicato, e cioè se i bambini che crescono con due genitori dello stesso sesso possono avere problemi, sì o no, sviscerato in una pagina di giornale, pro, contro, dica, risponda, è sì, è no, è bianco o nero. Ecco, mi sembra un po' una cialtroneria, nel senso che la vicenda invece è così più delicata e riguarda la vita intera di una persona e di diverse persone, ognuna con le sue storie diverse. Ma comunque, dateci oggi il dibattito del giorno, ed è questo, lanciato dal presidente della Società dei Pediatri: avere due genitori dello stesso sesso può comportare problemi al bambino? Sì, no, schieratevi, sondaggi, via. Certo, in questo pacato dibattito, ecco qui anche, ne ha combinato un'altra il direttore di Radio Maria, padre Livio Fanzaga, che ha detto della Cirinnà: mi ricorda la donna del capitolo 17 dell'Apocalisse, che per chi non fosse esperto di Bibbia, io per esempio non lo sono, come racconta il Fatto Quotidiano, tradotto gli ricorda la prostituta di Babilonia. E poi ha detto padre Livio Fanzaga Tra l'altro forse ce l'abbiamo anche in audio, lo facciamo sentire. Comunque, signora Cirinnà, arriverà anche il suo funerale, così padre Livio Fanzaga ha detto alla Cirinnà. Non lo so, lo possiamo sentire dalla via voce, così non cambiamo le parole. Padre Livio Fanzaga, facciamo questo collegamento. È stato interessante ascoltare l'intervento introduttivo di Monica Cirinnà. Lei questa qui? Questa qui mi sembra un po'... la donna del capitolo 17 dell'Apocalisse, no? La Babilonia, la prostituta di Babilonia, che adesso brinda prosecco alla vittoria. Signora, arriverà anche il funerale, stia tranquilla. Glielo auguro il più lontano possibile, ma arriverà anche quello. Vabbè, sì. Tutti dobbiamo morire, padre Livio, lei lo sa. Lo sa meglio di tutti. E vabbè, anche Mauro Meazza adesso, no nel senso, no Mauro, buongiorno. Buongiorno, però stavolta parte veramente la lettera No, capisco vabbè. Adesso essere accomunato a vicende di malversazioni pubbliche e private. Sì. No, questioni, dubbi. Perché non riesci a tenere la cornetta in mano? Dove hai la mano? Figurati, ma no, al di là dello scongiuro, effettivamente è una verità assodata, acclarata, sì. Che tutti dobbiamo come morire. Dire, ed è questo, sì, ma mi pare che sia stato risposto mo me lo segno. Memorabile battuta, mi pare, no, di Massimo Troisi. Esatto. Va bene, però parte la lettera dell'avvocato, caro va Alessandro, bene, buona pure. Giornata. Ti sento ringalluzzito dopo aver spezzato le reni con un trionfo al Chievo. Bravi. Non è successo niente, la decisione di mercoledì e quindi non succede niente, come dicevamo ieri. No, adesso mi hai fatto distrarre, a parte che ci sono un sacco di cose sul Sole 24 Ore, ti allora devo segnalare, mi fai perdere tempo. Ad esempio, tu sei tatuato? No. Questo lo diciamo anche per gli ascoltatori. E le ascoltatrici. Comunque, sappiate, e le ascoltatrici, certo. Tatuaggi sono entrati nel paniere dell'Istat. È vero. E questo lo trovi sul Sole 24 Ore di oggi, tra l'altro... nella prima pagina di Imprese e Territori, dove parliamo anche dei prezzi, dell'andamento dei prezzi al consumo, che è una cosa a cui stare sempre molto attenti. Diciamo che siamo appena sopra la deflazione, quindi non sono proprio ottime notizie, ma come si dice, poteva andare peggio, poteva piovere, per citare un altro grande. E allora ti voglio invece segnalare una notizia buona di quelle dita incrociate: sono diminuiti i tempi di pagamento della sanità. Sì. Da 151 giorni nell'ultima rilevazione, adesso siamo a una media, di 106 giorni. In realtà dovremmo stare entro i 90, però vabbè, non si può avere tutto, è comunque un grosso miglioramento. L'ho letto sempre sul Sole 24 Ore, lo potete leggere con tutti i dettagli sul Sole 24 Ore, ne scrive Roberto Turno in Imprese e Territori. Attenzione, quanto sai del maxi ammortamento? Allora, pensavo di Imprese, quanto sai della lettura di Imprese e Territori? Del maxi ammortamento, quanto ne sai? Un accidente. Ne saprò molto di più tra poco sul Sole 24 Ore. Quando potrai leggere con attenzione e religiosamente, visto anche come hai esordito, mi sembra il minimo, religiosamente, le pagine di norme e tributi, perché in una delle molte risposte date a Telefisco, manifestazione del Sole 24 Ore, l'evento del Sole 24 Ore, è stata anche data una interpretazione, diciamo, estensiva, positiva, sull'utilizzo del maxi ammortamento da parte delle imprese. Ora capisco che questa cosa ti lasci poco turbato, ma invece sappi che è importante, forse importante anche, diciamo, per l'andamento complessivo di tutti noi. Oggi ricordati che è giovedì. Ricordati che devi morire come Troisi. Usciamo un momento escatologico, che questa deriva escatologica che hai pigliato stamattina. Poi oltretutto voi siete andati anche bene, mi pare, ieri. Tre domenica, adesso due. Scapere non avrà addirittura dormito da questa vittoria clamorosa in trasferta. Insomma, fai poco lo spiritoso. Tre giorni che mi augurate di tutto, stamattina non voglio neanche dire cosa. Allora ti voglio segnalare che adesso mi hai fatto pure perdere il filo. Ma no, ma stai facendo tutto da solo, sì, 24. Ecco. Sì. Per forza mi tiri addosso di tutte le maledizioni e io mi distrago un po'. Casa 24. Casa 24, sappi che sulle pagine di Casa 24, tra l'altro, la redditività degli affitti nei vari centri risultano più convenienti le città universitarie rispetto alle città d'arte. Oh, sempre a proposito di case, c'è lo sconto in Muetasi per le case incomodato, sai, quelle che vengono date talvolta al padre e ai figli, dai figli ai padri, al padre e così via. Ecco, questo sconto è utilizzabile registrandosi entro il 1 marzo. Tutti i dettagli su norme e tributi devo andare un po' alla svelta, perché ti voglio dire, chiudendo proprio sulle questioni delle case, che sulla vicenda degli affitti di Roma adesso ci sarebbe anche un po' il rischio dell'usucapione, e lo spieghiamo oggi sul Sole 24 Ore, perché dopo 20 anni di utilizzo del bene forse come dire, non è che si può rialzare l'affitto, bisogna proprio assegnarlo. Leggi sul Sole 24 Ore di oggi, troverai anche le novità sul disegno di legge della concorrenza, perché ogni tanto rispunta nelle aule parlamentari e lì si parla anche di possibili agevolazioni per l'RC Auto. Perché ti parlo adesso di RC Auto? Per augurarti naturalmente una buona giornata. Devi morire. Va bene. Ricordati che devi morire. Sì, no, mo me lo segni proprio. Va bene, devo dire, Bescapè è un fenomeno. Bescapè è un fenomeno anche per lui, lettera dall'avvocato, e invece per tutti gli ascoltatori, traffico. Progetto Fuoco, Fiera di Verona, 24-28 febbraio, progettofuoco.it. Vi presenta Alessandro Milan, il ciocca piatti dell'informazione. Questo sì, e ne sono molto orgoglioso. Voglio portare avanti la causa di Lorenzo Nespoli, che mi ha fatto sapere durante il traffico che ieri gli hanno rubato qua fuori lo stemmino della Renault Twingo. Ma caro ladro, ma quanto varrà questo stemmino della Renault Twingo? Ma quanto sei sfigato? Ma quanto ci hai guadagnato? 2 euro? 4 euro? Mamma mia, ci vorrebbe la maledizione di Alex Drastico per chi gli ha rubato il motorino, ve la ricordate, Antonio Albanese? Vabbè. Dai, andiamo alla questione ancora sui giornali con il Fatto Quotidiano, che racconta, ed è il titolo di prima pagina, Boschi, il papà della Boschi, è stato indagato 10 volte. Questo è il fascicolo totale, o meglio i 10 fascicoli che hanno coinvolto il papà del ministro Boschi. Davide Vecchi e Antonella Masca li raccontano tutto a pagina 3. Per la verità, di 10 fascicoli, 9 sono stati archiviati, tutti legati a reati fiscali, o meglio presunti reati fiscali, visto che poi sono stati archiviati. Rimane solo l'ultimo ancora in corso di ipotesi di reato e di fascicolo aperto. Potrebbe arrivare alla 10ª archiviazione, quindi 10 su 10. Comunque, Boschi indagato 10 volte e in 4 casi il titolare del fascicolo era quel procuratore capo di Arezzo, Roberto Rossi, che è ormai abbastanza storia, al CSM aveva dichiarato di non aver mai avuto rapporti. Comunque, trovate anche di politica estera molti articoli. Vi segnalo la storia di Libero, raccontata da Franco Becchis in prima pagina, il titolo è abbastanza inquietante, l'Italia ha addestrato l'ISIS. È una vicenda che risale al governo Monti, quando spedimmo alcuni 007 al confine con la Siria per addestrare alcuni ufficiali siriani, ma racconta Franco Becchis in questa storia che riguarda i servizi segreti italiani, allora questi ufficiali addestrati disertarono e ora fanno parte dell'ISIS. Quindi di fatto, per una debacle, così la chiama Becchis, dei nostri 007, i servizi italiani hanno finito per addestrare persone che oggi militano nell'ISIS, nello Stato Islamico. Questa notizia che mi è più incuriosito a livello, diciamo, di movimenti, mentre purtroppo la cronaca fa registrare, come racconta il Sole 24 Ore con Carmine Fotina, pagina 7, cioè su tutti i giornali, il ritrovamento del corpo senza vita di Giulio Regeni, che era un ricercatore italiano scomparso il 25 gennaio al Cairo, in Egitto, ed è stato ritrovato alla periferia del Cairo in un fosso, è stato trovato morto. Ovviamente le autorità egiziane al momento non si pronunciano. Secondo Repubblica, così racconta almeno il quotidiano è stato anche trovato con segni di percosse e tortura. Un dramma che riguarda questo ricercatore di 25 anni che era al Cairo a studiare, aveva un appuntamento in piazza Tahrir con amici, non si è mai presentato, ovviamente non è facile, e anche il Sole 24 Ore spiega e parla di morte misteriosa, non è facile appurare che cosa sia davvero successo per questo povero ragazzo italiano. Che dire, c'è qualcos'altro da leggere dai giornali? Beh, sempre per quel che riguarda Etruria, Banca Etruria, c'è questa vicenda raccontata da Fiorenza Sarzanini sul Corriere della Sera. Il dissesto di Etruria è anche raccontato attraverso 17 milioni di consulenze irregolari. Così gli ispettori di Banca Italia dicono: incarichi doppi, incarichi spesso inutili, si segnalano 102 fatture in due anni. Tra il 2013 e il 2014 risultano pagati lavori di consulenza per 17 milioni 381 mila euro. Ricordate che una consulenza non si nega mai a nessuno in Italia. Mi ha incuriosito anche questa storia di cronaca, abbastanza surreale, ma posso capire che molti mi diranno: ma come? I pulcini, i poveri pulcini, è una vicenda sicuramente tragica. Ammazzarono tre pulcini. Tre bambini di 10 anni indagati, nonostante la soglia di punibilità è dai 14 anni, ma verranno convocati dal giudice dei minori, perché un allevatore, Alfio Bartolini, a Pesaro, dice: ho trovato i corpi a terra, massacrati, di pulcini che poi lui stesso massacrerà quando diventeranno dei bei pollastrelli. Ma al di là di questo, il GIP ha convocato questi piccoli vandali, sicuramente, che hanno strappato la vita a tre poveri pulcini, e ci sarà un giudice che li convocherà e porterà aperto un fascicolo, eccetera. I bambini hanno 10 anni e hanno ammazzato tre pulcini. Il Giorno lo racconta, ma siamo alla carta costa. Una pagina intera di Enrico Franceschini, di Repubblica, dalla Gran Bretagna, per raccontare che Dio salvi il povero accento inglese della regina. Non c'è nessuno più in Inghilterra che parla con l'accento inglese perfetto, neppure i Windsor parlano con l'accento perfetto inglese. Dio salvi questo accento. Ci vorrebbe uno scilipoti. Child adoption. Adoption. Ma chi se ne frega?